Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Avrete avuto modo di leggere recentemente sui giornali, ma anche guardando dei servizi giornalistici alla TV, avrete avuto modo di sapere, dicevo, che Don Tonino Vattiata, che è un giovane parroco di Cassaniti alle porte di Vibo Valentia e che fa parte dell'associazione Libera Vibo, è da tempo minacciato dalla 'Ndrangheta per il suo impegno anti-racket e antimafia. Però recentemente gli atti intimidatori si sono susseguiti fino ad arrivare all'incendio della sua auto parcheggiata davanti a casa. Noi abbiamo il piacere di avere, come facciamo sempre, con tutti coloro i quali sono minacciati, Don Tonino Vattiata ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, a distanza di alcuni giorni da questo ennesimo attentato, che idea si è fatta? Perché mi piacerebbe che lei spiegasse ai nostri radioascoltatori quale danno può provocare un parroco che in terra di mafia parla di antimafia. Sì, ancora è al vaglio degli inquirenti questo fatto. Io non sono nuovo a gesti del genere, ho subito anche minacce, certo, verbali qualche anno fa a Sant'Onofrio in occasione dell'affrontata, che è una manifestazione religiosa pasquale. Io credo che fare il proprio dovere, sforzarsi di promuovere dei valori positivi, valori che poi cristianamente parlando sono quelli del Vangelo, necessariamente espone chiunque, non solo me, ma in questa circostanza la mia persona, a gesti del genere. Quindi io non so lo sfondo in cui poi si è consumata questa decisione di fare questo gesto contro la mia persona. Certo. Ecco, lei ha fatto bene a raccontare l'episodio dell'affrontata di Sant'Onofrio, perché ricordiamo che per il secondo anno consecutivo è stato praticamente impossibile, diciamo così, far camminare questa statua in maniera civile, perché le pressioni da parte degli uomini delle cosche, che spesso sono lì in prima fila, sono state talmente alte che il prefetto, insomma, ha detto: ragazzi, qui c'è qualcosa che non continua a non andare, affidiamo dei volontari, come dire, il cammino di questa statua. E allora io le chiedo, caro Don Vattiata, ma la chiesa calabrese è sempre comunque tutta schierata in una sola direzione oppure c'è qualcuno che chiude più di un occhietto? Ma la chiesa calabrese dal 75, attraverso documenti, attraverso presentazioni, che denuncia proprio questa desolante piaga della società che è l'andrangheta. Certo, gli strumenti pastorali che noi abbiamo sono diversi da quelli che sono gli strumenti che invece lo Stato deve mettere in atto e in campo. Certo. Noi siamo più verso un versante, diciamo così, preventivo. Logico che lo Stato, facendo la sua parte, dovrà mettere in gioco delle forze di tipo repressivo, purtroppo, dico io. Però su questo la Chiesa calabrese si spende molto, e ci sono degli esempi bellissimi che noi abbiamo in Calabria di sacerdoti impegnati, quindi non possiamo dire che la Chiesa calabrese sia divisa su questo fronte, che invece ci tiene uniti. E io colgo l'occasione veramente per ringraziare tutta la Chiesa calabrese per la vicinanza, e non tanto gli attestati di solidarietà che sono stati infiniti, quanto gli attestati di corresponsabilità. Oh, questo è molto importante. Che ci devono unire per aiutare questa terra a liberarsi dalle forze. E questo è molto importante. A proposito di solidarietà, caro Don Tonino Vattiata, quella della cittadinanza di Cassaniti degli amministratori è stata di facciata oppure c'è, come dire, c'è un movimento che l'accompagna? Perché se noi non siamo un paese stufo degli eroi, no? Vogliamo avere persone normali, quale lei è, che predicano la legalità. E allora, gli amministratori della cittadinanza le sono vicini e in che modo? Sono vicini. Proprio ieri si è svolto il consiglio comunale straordinario lì nella frazione dove io vivo e opero come sacerdote, che è Pannaconi, che è questa frazione di Cassaniti. Si è svolto proprio questo consiglio comunale dove non è stata una solidarietà di facciata, ma un voler riprogrammare anche l'azione civica, se così la possiamo definire, per cercare di arginare determinati fenomeni, fermo e convinto del fatto che la legalità non è soltanto contrasto alle mafie, ma è un atteggiamento che ci deve accompagnare sempre. Io portavo proprio questi esempi: il non pagare l'acqua, il non pagare la spazzatura, il non essere a posto in regola quando le forze dell'ordine ci fermano in un posto di controllo. Beh, la legalità parte da questi piccoli gesti quotidiani. Certo, assolutamente. La solidarietà, ripeto, più che solidarietà io parlo di corresponsabilità. Basta un esempio per tutti, cioè a distanza di una settimana la comunità si è impegnata a fornirmi di un'autovettura per poter tornare a lavorare. Assolutamente, assolutamente, perché è comunque un mezzo che serve non per, certamente a lei per svago, ma assolutamente per portare parola di fede e di legalità in tutto il territorio. Io ringrazio Don Tonino Battiata per questa bella chiacchierata che ha avuto con noi. Roberto Scaltitti in regia ci ha aiutato, così come Laura Faggin in redazione. Da Roberto Gallullo l'augurio di una buona giornata.